pomeriggio e bentrovati cari amici, buon anno, buon 2013. Eccomi qua, sono tornata a tenervi compagnia, siete rigorosamente in diretta su CRMP Radio, all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia, in compagnia di Jerry che sarà con voi sino alle 15, minuto più, minuto meno. E allora, come avete passato le feste? Ancora ce n'è un'altra, magari l'Epifania che, ahimè, tutte le feste porta via. Speriamo che quest'anno sia un anno migliore di quello passato, che sia un anno di pace, di serenità, di tranquillità, di salute, d'amore, di lavoro per tutti quanti noi e spero che tutti i vostri sogni possano diventare realtà. Questo è l'augurio che faccio a tutti quanti voi, cari amici. E allora, visto che siamo in ritardino, perché vabbè, un anno va viene, un anno va, ma io sono sempre puntualmente in ritardo, e vabbè, pazienza, questa è, che devo fare. Direi di cominciare subito con una bellissima canzone. Un giorno bellissimo, speriamo che sia per tutti voi. È già mattino e fuori piove, ti sento respirare, sei qui vicino a me. Mi volto piano e il tuo profumo riempie il mio cuscino di cose che vorrei. Sono le 15:27, venerdì 14 gennaio, in compagnia di Jerry fino alle 17 e noi andiamo avanti sempre con la bella musica di CRM. Up in the Escalade, saw the W game to the valet, knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the rolly blade. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you, but your heart's a mess, think you ought to know, doesn't matter if you're balling out of control. All that matters is that you treat me right. was not available in stores. Seen inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. All that I see is that you treat me right. Give me all the things I need. Ascoltato, beh, sembrerebbe che la pop star si stia preparando al dire il suo quarto sì. Beh, sì sì, il 2013 potrebbe infatti essere l'anno giusto per sposare il suo toy boy Casper Smart. Ma oltre alla differenza di età, che pensate un po', lei è più grande di quasi 20 anni, vabbè, dettagli, c'è anche quella economica che pesa sul futuro della coppia. La cantante infatti fattura circa 40 milioni di dollari l'anno, il ballerino invece vive di luce riflessa e a quella cifra non si avvicina neanche lontanamente. In una intervista, secondo diciamo alcune indiscrezioni, lui avrebbe confessato che presto le chiederà di sposarlo. Lui la vuole sposare e lei gli ha fatto anche capire di essere pronta, anche se diciamo sarebbe appunto al suo quarto matrimonio. Ma il toy boy Casper Smart praticamente vuole la sua indipendenza economica e appena rientreranno dalle vacanze cercherà di mettere in piedi un nuovo business. Jennifer Lopez è già stata sposata nel 97, pensate, con Onaji Noah, nel 2001 con Chris Judge e nel 2004 con Mark Anthony, che poi dal quale ha avuto due gemellini, Max ed Em. Tra le quante nozze, quindi forse è solo questione di mesi. E vabbè, anche facciamo comunque tanti tanti tanti tanti cari auguri a Jennifer Lopez. Quarto matrimonio, accivicchia, accivicchia. E noi cosa facciamo? Sì, intanto vi devo ricordare subito i numeri che non l'ho fatto ancora. Il 3355637251 e ancora lo 0921923292. Vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming al nostro sito www.crmhappyradio.it. Sono a Menebo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto. Sola me ne vo per la città. Saluto il mio carissimo amico Gaetano, che sicuramente in questo momento mi sta ascoltando. Ciao Gaetano. E noi andiamo avanti e continuiamo sempre, diamo largo spazio alla musica. Kesha, Da Young. Let's make the most of the night, like we're gonna die young. lines, running till we out of time. Wild child, looking good, living hard just like we should. Don't care who's watching when we tearing it up, you know. That magic that we got, nobody can touch. Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. I hear your heart. Dopo la tragedia provocata dall'uragano Sandy, ha fatto mea culpa per la canzone Die Young che abbiamo appena ascoltato. E adesso Kesha torna a far parlare di sé con una dichiarazione che affida a Seventh in Magazine circa le sue inclinazioni sessuali. Dice: non mi piacciono soltanto gli uomini, mi piacciono le persone, assicura. Insomma, la 25enne icona sexy della musica ammette di essere bisessuale, ma per chi la segue da tempo forse non è una sorpresa. Non è una questione di genere, dichiara la cantante, semmai una questione dello spirito che trasuda dalla persona con cui stai. E intanto Kesha lancia anche la sua battaglia contro il bullismo e cita l'esempio del fratellino minore, che ha 13 anni e viene spesso preso in giro perché balbetta. Non tollero, dice, le persone che prendono in giro gli altri. E intanto è pronta a dichiarare guerra contro il suo secondo, con il suo secondo album, Warrior, una guerriera sexy. Quindi presto la ritroveremo, presto ritornerà a farci sentire quindi questo suo album, una guerriera sexy. No, e noi andiamo avanti. Certo, arriva lui, il grande Adriano Celentano, e su questa canzone saluto Patrizia che ce l'ha richiesta qui alla 335-56-37251. Non chiederti se, se l'ultima volta che hai rubato il giorno al mondo era per me, o forse non ero a corrente che il tempo a quel tempo correva anche per lui. Non ti accorgevi di me se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te che mai mi venivi a salvare. Lasciando ogni cosa com'è, accorgevi di me. Se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te, che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me, perché già sapevi che io, se mi curavo di te, a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare, proprio te. So che voglio soltanto morire, su quelle tue labbra c'è ancora posto per me. E come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me, sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te, nelle tue mani ci senti. Avrò cura di te, ora che io so sentirti, avrai cura di me, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti. Patrizia, com'è che non si accorgevano di te? Impossibile, dai! Un bacione grande, grande a Patrizia che in questo momento mi sta ascoltando. E a proposito del molleggiato, beh, da 75 anni è rock praticamente da una vita lui. In occasione dello storico compleanno di Adriano Celentano, il 6 gennaio, quindi tra pochissimo, Premium Play omaggia il cantante della Via Gluck con lo speciale Adriano 75 anni rock, visibile dal 4 al 20 gennaio. Nel corso dello speciale si ripercorrono per immagini le tappe salienti della carriera a cavallo tra musica e cinema dell'Adriano nazionale, passando dagli spezzoni di pellicole quali Innamorato pazzo, Il burbero, Il bisbetico domato, Asso, Mani di velluto, Bluff, Storia di truffe e di imbroglioni, Sing Sing, Grand Hotel Excelsior e tante tante tante tante altre. Tra le chicche, il cameo di Celentano nella Dolce vita di Fellini. Quindi mi raccomando, non perdete questo appuntamento dal 4, quindi da partire da oggi praticamente fino al 20 gennaio su Premium Play, per omaggiare i 75 anni rock del grande Adriano Celentano. E poi naturalmente, visto che il 6, quindi domenica, credo faccia che 6 domenica, sì, farà il compleanno, quindi tanti tanti tanti cari cari auguri. E noi continuiamo, andiamo avanti, e su questa canzone saluto Maria che ce l'ha richiesta. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me, no traffic jam delay. See, I was driving over the moon in my big hot air balloon, floating high into the darkness. I hope I get there soon. There's so many things to do, so many people I need to talk to, and they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me, no traffic jam today. Thank my stars, forever be green. You have no idea what it means, no, no, well, to a man who's always traveling, things that I've seen. I don't know what's yet to come, not sure of anything that I've done really makes that much difference. Well, I hope it has for some. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me, in my big hot air balloon, floating high up in the darkness. I promise that I'll make it to you very soon. Something special happened today. Boy, when he could come inside of my playpen, cause he looked like a superstar in the making. So I think that I'm going in for the taking. Here through the grapevine that he caking. We could shoot a movie, he could do the taping. Boom, boom, boom, boom, pow, this thing be shaking. I ain't even try to find out who he dating. Cause I know he got a wife at home, but I need just one night alone. If he keep playing them good damn games, I'ma run away. If you want it, I'm gonna be by the moon. If you got it, you got it, you got that moon. Boy, just met a boy when he could become my little problem. Cause he looked like he modeling clothes in Dublin. So I think that he getting that green, that goblin. Get through the grapevine that he hang low. We could shoot a movie, could bang like Rambo. Boom, boom, boom, pow, this thing so bingo. Wondering if he could understand my lingo. Cause I know he got a wife at home, but I need just a night alone. If I keep playing good old games, I'ma run away. If you want it, I'm gonna be my boom, boom. If you got it, you got it, you got that boom, boom. If you want it, I'm gonna be my boom, boom. If you got it, you got it, you got that boom, boom. Boy, I'm in this club slow-mo. Don't mind if I do. And I can tell you're feeling me from the jump. I wanna ride too. Al frastuono di un locale abbiamo urlato al cielo sopra un luna park e ridere da stare male. In paradiso abbiamo fatto l'amore, ti ho guardata tra le luci della città, chissà per quanto tempo, perché tu sei bellissima in questa notte. Questa notte baciami forte, baciami anche se piove. Nessun vento temporale disperderci potrà. Siamo io e te in questa notte. Prenderemo il primo aereo, chissà dove andrà. Dormiremo stretti in tutte le città e sogneremo di fare l'amore. Ci sveglieremo per farlo davvero. Ma intanto è questa notte a volare via. tu non lasciarmi adesso, ti prego resta ancora un po'. In questa notte, in questa notte, baciami forte, baciami prima di andare. Leggo nei tuoi occhi quello che io sto pensando. Non può finire tutto così e non finirà in questa notte. Baciami forte, baciami prima di andare. Resterò a guardarti mentre ti allontanerai e non saprò se mai ti rivedrò. Baciami forte, baciami prima di andare. Magnifica canzone di Raffo, saluto Chiara che ce l'ha richiesta sempre qui allo 0921 92 32 92, fatelo anche voi, mi raccomando. Parliamo adesso di, beh, siamo anno nuovo, siamo da poco entrati nel 2013, quindi anno nuovo, vita nuova. Un adagio forse usurato, eppure molti approfittano dei primi giorni del nuovo calendario per fare un bilancio e compilare una lista di buoni propositi. Tra questi, beh, molti riguardano la salute e una maggiore cura della propria persona. Beh, per non fallire magari meglio evitare di progettare di partecipare per esempio alla maratona di New York se si è reduci da un anno di divano. Bastano infatti piccoli gesti per migliorare la propria forma fisica e mentale. E quindi adesso gli esperti, no, ci suggeriscono 10 semplici regole da seguire. Per esempio, numero 1, la prima regola è quella di stare seduto composto, quindi appoggiare bene la colonna vertebrale allo schiena della sedia. Questo potrebbe essere un buon inizio per allineare i muscoli e stare alla larga dal mal di schiena, per esempio. Al punto numero 2, beh, mangiare molta verdura. Beh, ogni tanto, a parte, fa benissimo, quindi mi raccomando, tanta verdura. Ascoltare una canzone. Beh, gli esperti dicono che ascoltare musica ha un effetto benefico sulla circolazione sanguigna e la funzione cardiaca. Organizzati. Cioè, nel senso che bisogna iniziare la giornata magari con una lista delle cose da fare, segnando tutto quello che si vorrebbe fare durante la giornata. Poi sogna ad occhi aperti, quindi lascia vagare la mente. Secondo quindi gli esperti, aiuta a trovare le soluzioni migliori quando bisogna risolvere un problema. Al punto numero 6, beh, ridi di più. Una risata di cuore rilascia le endorfine, le sostanze chimiche cerebrali che ci fanno sentire meglio. Secondo quindi uno studio, guardare un programma comico per 15 minuti innalza la soglia del dolore di una media del 10%. Respira, vabbè, quello sì. La meditazione chiarisce pensieri e aiuta a ridurre stress, ansia e depressione. Al punto 8, fai ginnastica durante la pubblicità. Questa forte, fare squat e affondi durante le pause commerciali aiuta a sentirsi meno in colpa per il tempo passato davanti alla TV. Anche se 2 minuti di tonificazione potrebbero non sembrare sufficienti, possono fare la differenza specie se ripetuti 3 volte alla settimana. Al punto 9 invece, impara il tango. Il ballo della passione è stato adottato addirittura come terapia in un ospedale milanese. Per la particolare modalità tecnica di esecuzione dei passi, obbliga a un maggiore controllo della propria corporeità. Inoltre migliora l'equilibrio, postura e qualità del movimento. E al numero 10, beh, smettila di rimandare, infatti comincia da subito. Bene, bene, questo, quindi segnate tutto, queste le 10 regole per stare in forma, per stare bene. Sono le 16.02, siete in compagnia di Jerry all'interno di Semplicemente Insieme, sarò con voi sino alle 17 circa, vi ricordo i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, il 335-56-37-251 e lo 0921-92-32-92, vi aspetto! The it's raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. And it's wrestling men. Tall, blonde, dark and mean. Rough and tough and strong and mean. Down against Mother Nature. She's a single woman too. She took on a heaven. And she did what she had. Wet girl, I know you want to. I feel so me when the moving about to begin. Jerry Halliwell, beh, a 40 anni sogna ancora di innamorarsi, sposarsi e avere un lieto fine da favola, nonostante abbia alle spalle un passato di relazioni fallite, ahimè. La cantante comunque ha già una figlia di nome Bluebell, nata da una breve storia con lo sceneggiatore Sasha Gervasi, ed ha avuto relazioni con la popstar Robbie Williams e il comico Russell Brand. In un'intervista dice: sono molto aperta alle relazioni e al matrimonio e mi piacerebbe che ci fosse, beh, un finale da favola, ha detto al quotidiano britannico Daily Mirror. Dovrete chiedermelo di nuovo quando avrò 90 anni, aggiunto, e vi farò sapere la risposta. Beh, noi speriamo che presto possa incontrare l'amore e stare e vivere finalmente la sua storia d'amore felice e tranquillamente. E noi adesso andiamo avanti con la bella musica sempre di CRMP Radio. Arriva lei, Beyoncé. You never were, and nothing like I thought you could have been. But still, you live inside of me. So tell me, how is that? You're the only one I wish I could forget. The only one I love to not forgive. And though you break my heart, you're the only one. And though there are times when I hate you, 'cause I can't erase the times that you hurt me. Tears on my face, and even now while I hate you, it pains me to say, I know I'll be there at the end of the day. I don't wanna be without you, babe. I don't want a broken heart. Don't wanna take a breath without you, babe. I don't wanna play that part. I know. You would never come around, and still I wanna put this this out. You say you got the most respect for me, but sometimes I feel you're not deserving of me. And still, you're in my heart, but you're the only one. And yes, there are times when I hate you, but I don't complain, 'cause I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense, I see the seven sands. Now, baby, let's get started for life. Love. name it. I went from evictions and food stamps to bagging work, wet and damp, to a passport flooded with stamps. Now it's slowly everywhere I land. Two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, darling. Start what you can't finish. Feels right. Let's go. Feels right. Someone once told me that you have to choose what you win or lose. You can't have everything. And don't you take chances, you might feel the pain. Don't you love in vain, 'cause love won't set you free. I could stand by the side watch this life pass me by. So unhappy, but safe as could be. So what if it hurts me? So what if I break down? So what if this world just throws me off the edge? My feet run. So what? E siete sempre qui in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry. Ancora una bella mezz'oretta piena da trascorrere insieme a me, insieme alla bella musica di CRM. Adesso arriva lei, Gianna Nannini, con Perfetto, e su questa canzone saluto Filippo, ciao! Non me ne andrò da te stasera, sei la mia catena, resto qui in galera. Ho fatto un patto col tuo cuore, chi si lascia muore, ma non è mai detto. Una parola, poi uno schiaffo, siamo questo adesso, un inferno rosso. Giri attorno come un cane che ha soltanto fame e poi mi salti addosso. Perfetto. Con voi adesso parliamo di cinema. Beh, io al solito no, do un'occhiatina e vado alla ricerca di qualche notizia un po' così diciamo curiosa, e ne ho trovata una divertente, carinissima. Diciamo che uno dei cinema più insoliti al mondo è lo Hot Tub Cinema di Londra, pensate un po', posizionato su un attico di un palazzo della città, dove gli avventori possono godersi il film da una comoda vasca idromassaggio. Ma voi ci pensate? L'idea, spiega Asher Charman, uno dei fondatori, è nata in modo spontaneo. Dice: un giorno, mentre era con qualche amico e volevano vedere un film, volevano usare la vecchia vasca idromassaggio, hanno proiettato il film sul lenzuolo e così è nata l'idea. L'idea, diciamo che è stata ulteriormente affinata scegliendo di posizionare il cinema su un attico in modo da consentire agli avventori di godersi il panorama di Londra mentre guardano il film. Ma soprattutto nascono spesso feste spontanee durante le proiezioni, con ragazze in bikini che si mettono a ballare tra le vasche e giochi d'acqua. Oh, wow! L'idea ha avuto un notevole successo, tanto che ora per assistere ad una proiezione all'interno dell'insolito cinema è spesso necessario prenotare con anche un mese di anticipo. E ci credo, e ci credo. Ma voi ci andreste mai a Londra a vedere un cinema dentro una vasca idromassaggio? Va, da provare, ve lo consiglio, dai, andiamoci e poi vediamo che succede, dai, mi raccomando. E noi andiamo avanti con la bella musica, e su questa canzone saluto un carissimo radioascoltatore, Massimiliano. I'm

together without me. Ooh. I just can't let you start it tonight. 9, 10, 11, now midnight strikes. I don't know where you've been, but I still wanna make love tonight. When you come stumbling in, baby, come home to me. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va al sole. grande Sugar, Zucchero. E andiamo avanti con uno dei tormentoni. Ecco quello che arriva, Psa, con Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 보이지만 볼 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선어해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해, 그런 선어해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Già per dirlo, mamma mia. Che non sciogli lingua sta cosa. Continua a macinare record su record e da un paio di settimane è anche entrata nel dizionario Collins della lingua inglese. Mentre normalmente il dizionario aggiunge una nuova parola all'anno, la più rappresentativa quest'anno, gli editori hanno deciso di aggiungere 12 parole, una per mese, per seguire la rapida evoluzione della lingua, spiega la Ian Brooks, consulente editoriale. Gangnam Style è accompagnata da altre parole quali Fiscal Cliff, il meccanismo di controllo del budget USA, Romney Shambles, per indicare una serie di gaffe come quella del senatore Romney durante la sua campagna come candidato alla presidenza USA contro Obama. Broga, una forma di yoga pensata espressamente per gli uomini. Beh, avete capito, quindi anche Gangnam Style è entrato nel dizionario inglese. Già a dirlo il suo nome, dico una cosa più facile, no, eh? va bene, va bene. E noi andiamo avanti, sono le 15.45, ancora un altro quarto d'ora insieme a Jerry, all'interno di Semplicemente Insieme, sempre con la buona musica di CRM P Radio. La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà, grande cattedrale

senza pagina, Sansone contro Dalila. E sono ancora qui con voi, ancora qualche minutino e poi, ahimè, dovremo salutarci, ma tranquilli, ritorno poi lunedì. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare qualche canzone, ancora arrivano loro, Caruso e Valenciano, Mami! Ando con Valenciano e ando con el Caruso. Mira! Come on baby, move it slow, shake your body with my flow. Come on baby, move it slow, shake your body with my flow. Come on baby, move it slow, shake your body with my flow. Put your hands up. Mano para arriba todo el mundo, dice. Oh nene, oh na na. Esta noche se está calentando. Oh nene, oh na na. Esta noche tú y yo, mami, nos vamos echando. Oh nene, oh na na. Esta noche se está calentando. Oh nene, oh na na. Vamos, nena. Mano aplaudiendo a los cubanos. Per i saluti finali, non andate via. La gente stanca di lavorare, si mette allegria col televisore. destino in un attimo ci ha fregati. Impossibile da trattenere, come il mare dentro un bicchiere. L'irruente passione per cui un istante è sbocciato un eterno amore. Maledetto quel giorno, mannaggia. Sono le 17.05, siamo arrivati alla fine del programma di Semplicemente Insieme, naturalmente sempre tutto rigorosamente in diretta. Vi do l'appuntamento a lunedì, sempre a partire dalle 15.15, bene o male, sempre se non arrivo in ritardo, perché ormai mi conoscete, lo sapete, sono una ritardataria pazzesca. E allora vi auguro una buona serata, buon proseguimento con i programmi di CRM. Vi auguro anche una buona Epifania, mi raccomando, non mangiate tanto, troppo, mi raccomando, fate i bravi come dico sempre io, ma non troppo. Ciao ciao, baci, alla prossima! Semplicemente, semplicemente, semplicemente.